America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Beh, abbiamo molte notizie oggi dal fronte americano. Vorrei cominciare con le reazioni che ci sono state, quantomeno sulla stampa, perché qui è molto presto al mattino ancora, al risultato del referendum italiano, la sconfitta di Matteo Renzi. Il New York Times ne parla in prima pagina con un tono molto preoccupato. Una conferma, scrive il quotidiano americano, del dilagare del populismo in Europa e aggiunge: l'Italia precipita in una incertezza economica e politica. Il Wall Street Journal si concentra sulle conseguenze economiche, sconfitta bruciante, problemi per l'eurozona. Ecco, io avevo incontrato dei finanzieri che erano piuttosto preoccupati dal possibile esito negativo di questo referendum. In realtà l'Italia va avanti, non è che perché ci sia stato un no alla fine tutto crolla. Rapidamente, per la segreteria di Stato, Donald Trump aveva avuto indicazioni che Petraeus poteva emergere come il candidato davvero di punta. All'improvviso è emerso un altro candidato completamente nuovo, Rex Tillerson, l'amministratore delegato della Exxon, il grande colosso petrolifero della Exxon Mobil. Trump lo conosce, un texano che ha fatto degli accordi con Putin. Rapidamente, altra notizia: Donald Trump ha stupito di nuovo dopo aver fatto questa telefonata, dopo aver chiacchierato col leader di Taiwan, ma di questo ne parlerò dopo. Ha annunciato via Twitter che avrebbe introdotto una tassa sui confini del 35%, una tassa cioè per quelle aziende che vogliono esportare posti di lavoro. Infine, non possono registrare nella cronaca il funerale di Fidel Castro. Le sue ceneri sono state sepolte nel cimitero di Santa Efigenia a Santiago de Cuba. Si chiude un capitolo. Sul piano simbolico, devo dire, è molto interessante vedere che in questo stesso giorno molte pagine di storia, alcune si archiviano, altre si aprono. Stiamo vivendo quello che è l'opposto del proverbio cinese: vi auguro di vivere in tempi non interessanti. Stiamo vivendo un momento di straordinari cambiamenti, un momento molto interessante, a partire proprio dalla Cina e dalla telefonata con leader di Taiwan, Tsai Ing-wen, da parte di Donald Trump. Sentiamo. President-elect Donald Trump's controversial call in a major break with U.S. diplomatic policy. Mr. Trump spoke to the leader of Taiwan on the phone yesterday. Ecco, devo dire, è la telefonata che ha dominato le cronache internazionali, interne, tutto il mondo ne ha parlato. Perché? Perché erano oltre 40 anni che un leader, un presidente eletto americano, non parlava con un leader di Taiwan. La prassi è che la Cina è una e la provincia di Taiwan è semplicemente temporaneamente distaccata in mano a ribelli. Allora c'è una cosa che mi ha colpito, che molti commentatori hanno liquidato la comunicazione di Trump con Taiwan come il risultato di una gaffe dovuta all'inesperienza del nuovo presidente americano e del suo gruppo. Ecco, si sbagliano di grosso. Trump sapeva benissimo quello che stava facendo, la decisione è stata presa anticipando possibili conseguenze, perché insomma, alla fine, che piaccia o no, il nuovo paradigma Trump non esclude di rimettere in gioco lo status quo internazionale, non esclude di rimettere in discussione persino l'apertura, il libero mercato ispirato dal capitalismo. Ma la storia di Taiwan mi ha colpito, perché è chiaro che c'è un disconnect tra analisti, politologi, giornalisti, e quello poi che capita davvero, le spiegazioni di quello che capita davvero, perché la dinamica seguita con Taiwan da Trump scopre le carte. Che non ci fosse casualità lo hanno certamente capito a Pechino, perché la prima reazione è stata morbida, un po' confusa, seguita però da una dura protesta formale. Alcuni mesi fa il capo di gabinetto di Trump, Rince Priebus, aveva visitato a Taiwan Tsai Ing-wen, che è la nuova presidente. Non solo, John Bolton, molto vicino a Trump, lo ha considerato come suo segretario di Stato, aveva scritto un articolo su Wall Street Journal non tanto tempo fa, alcune settimane fa, in cui proponeva di usare la carta Taiwan per rispondere all'aggressività cinese nei mari del sud, nei mari cinesi del sud, in quelli orientali, e suggeriva di riaprire addirittura le relazioni diplomatiche. Cos'è successo? Bolton ha visto Trump due giorni prima della telefonata. Ecco, credetemi, nessuna casualità. Abituiamoci dunque a questo tipo di incursione, appunto tipica del grande negoziatore spregiudicato, e vedremo chi sarà il prossimo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più né più difficile, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su americamericamo4.com, seguitemi su Twitter, chiocciola Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, venerdì i Rolling Stones hanno rilasciato il loro ultimo album, si intitola Blue and Lonesome. È una raccolta di cover di vecchi pezzi blues, dunque dedichiamo uno dei brani di questo disco all'addio di Fidel e, volendo magari anche per dedicarla a lui, all'addio che ha dato ieri al governo Matteo Renzi. The Rolling Stones, I Gotta Go. Leave it in the morning, baby, I know I got to go. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!